Allora, di nuovo benvenuti alla lezione. La lezione è pensata soprattutto per un punto di vista pratico sulle varie e molte halakhot che esistono per quanto riguarda, se Dio vuole, la festa di Pesach, che avrà luogo fra poco più di 2 settimane. Domani sera, la sera del 3 aprile, e domani sera è Rosh Chodesh del mese di Nisan. Quindi la sera del 14 di Nisan è la sera del Seder, la sera precedente, la sera successiva al 14, quindi il 15, la sera precedente è la sera del controllo del Hametz, la ricerca del Hametz. Ci sono vari punti. La ricerca del Hametz è la sera prima della sera del Seder, quindi in questo caso giovedì sera, la sera del Seder è venerdì sera 3, giovedì sera è la ricerca del Hametz. Allora iniziamo dal mese di Nisan. Il mese di Nisan appunto inizierà questo venerdì sera, è considerato un mese di redenzione, un mese di festività, un mese festivo. Ci sono alcune regole che riguardano il mese di Nisan, per esempio non si va al cimitero se non per un funerale o una ricorrenza dell'anno e così via, proprio per il senso festivo. Questa è l'usanza di norma normalmente che si usa proprio per il senso festivo del mese. E cosa bisogna fare già da prima di Pesach, cioè da prima, addirittura anche da 30 giorni prima di Pesach, quindi non solo, bisogna studiare le regole della festività. Questo vale non solamente per Pesach, anche per tutte le festività importanti. C'è scritto che già da 30 giorni prima si inizia a ripassare, a studiare, a fare le domande rilevanti relative alla festa. Per tutte le festività, che quelle diciamo i Moadim, quindi Pesach, Shavuot e Sukkot, esiste la mitzvah scritta nella Torah di aiutare coloro che hanno meno possibilità a fare anche loro la festa, quindi avere tutto il necessario. E questa mitzvah diventa ancora più importante, tra virgolette, quando è Pesach, perché Pesach ci sono più spese rispetto alle altre festività, rispetto agli altri Moadim, quindi perché ci sono, ognuno deve bere 4 bicchieri di vino, ognuno deve mangiare la matzah, e quindi è ancora più importante la mitzvah di iniziare da prima di Pesach, aiutare. E ci sono molte organizzazioni che lo fanno, anche noi dal nostro tempio, nel nostro piccolo, raccogliamo e distribuiamo a chi ha bisogno per le necessità della festa di Pesach. Questa è sicuramente tra le mitzvot più importanti in assoluto di Pesach. Ora, nella preparazione, nei preparativi specifici di Pesach, abbiamo ciò che si chiama le pulizie di Pesach. Le pulizie di Pesach in realtà potrebbero essere meno complicate di quanto molti fanno. Ora, questo non è per dire che ciò che si fa non va fatto, però è per fare una distinzione tra ciò che si deve fare e ciò che si può fare se si vuole. Ovvero, veniamo tutti da tradizioni. Buonasera. Veniamo tutti da tradizioni nelle quali per le pulizie di Pesach ci si fa in molti pezzi, sia nella nostra tradizione ashkenazita che nella tradizione romana, che in quella tripolina, e in tutte le tradizioni esiste questa cosa, ma ci dobbiamo ricordare che le nostre nonne, le nostre bisnonne, alcune cose le hanno fatte perché le volevano fare, non perché erano obbligate a farle. E il riconoscere queste distinzioni ci aiuta a gestire situazioni specifiche dove se dobbiamo scegliere tra una cosa e un'altra possiamo scegliere quella necessaria e tralasciare quella che, se è possibile, se c'è tempo, se c'è forza, si fa, oppure comunque sappiamo la distinzione tra ciò che appunto è necessario e ciò che possiamo fare. Se siamo, è importante farlo nell'essere portati a farlo e non diciamo farlo perché si pensa che deve essere fatto per forza, e poi anche vivere male la festa, purtroppo. No? Perché se la festa diventa una cosa estremamente pesante, stressante, che può portare ad una situazione anche di difficoltà in famiglia e così via, allora lì nel sapere cosa è essenziale, cosa è voluto dalla legge, cosa invece si può fare perché lo vogliamo fare, si può creare una armonia. E non dimentichiamo che Pesach è una festa, è un momento di stare con la famiglia, è un momento di festeggiare, è un momento di essere besimcha, in gioia e in contentezza, in allegria. E se qualcuno deve stare a letto per 48 ore quando Pesach inizia perché per 30 giorni ha fatto troppi movimenti che nel corso di tutto un anno non avrebbe fatto, allora bisogna pensare quali sono le cose che devo fare, quali sono le cose che posso e voglio fare se c'è la possibilità. Allora, questo riguardo delle pulizie di Pesach, iniziamo un attimino dall'inizio. Perché bisogna fare le pulizie di Pesach? Cosa comportano le pulizie di Pesach e a che cosa servono e da cosa abbiamo paura perché facciamo queste pulizie? Allora, la Torah ci insegna, Valentina, so che devi andare quando vuoi, non ci offendiamo. No, quando vai a una festa e ti ringrazio che sei venuta. Comunque, quando vuoi ci sono le mazzotte, i moduli. No, per questo te lo volevo dire. Allora, Oh, perfetto. Allora, sì, ci sono varie indicazioni nella Torah. Io adesso dico in generale, senza tutti i riferimenti specifici, perché sennò poi diventa tardi. Allora, in generale abbiamo nella Torah delle mitzvot che riguardano Pesach, alcune sono mitzvot negative, ciò che non si può fare, e alcune sono mitzvot positive, ciò che siamo tenuti a fare. Quello che siamo tenuti a fare a Pesach è la sera del Seder, le due sere del Seder, abbiamo l'obbligo di bere 4 bicchieri di vino, mangiare la matzah, e gli altri elementi del seder che dobbiamo mangiare, come le erbe amare, eccetera, maror, e l'altra mitzvah del seder è l'Agada, il racconto della storia dell'esodo dall'Egitto, ognuno con il libro dell'Agada, ma anche con il capirlo, il trasmetterlo, il far partecipare i bambini con il Manishtana, con tutto ciò che sapete benissimo è la sera del seder. Questo è un obbligo positivo, una cosa che dobbiamo mettere in atto. Quello che è negativo, che non si può durante tutti i giorni di Pesach né mangiare chametz, ora vediamo esattamente cosa è chametz, né possedere chametz. Quindi nella nostra proprietà non ci deve essere chametz che è di nostro possesso. Molto importante sottolineare, nella nostra proprietà non ci può essere chametz che è di nostro possesso, che appartiene a noi. Ora vediamo come si gestisce questa cosa. Oltre al divieto di mangiare chametz e di possedere chametz, c'è il divieto di trarre alcun tipo di godimento dal chametz. Ovviamente, se diciamo possedere, è incluso, però bisogna sottolineare che, per esempio, la vendita di qualcosa che è chametz durante Pesach è vietata perché tu trai godimento dal chametz. Oppure un esempio più pratico: se il cibo che mangia il cane o il gatto è chametz, è vietato per noi a Pesach. Se un altro giorno dell'anno il cane mangia un cibo che non è kasher, se non è carne e latte, perché anche nel carne e latte insieme c'è lo stesso divieto di non trarre alcun godimento, ma se non è carne e latte insieme, qualcos'altro che noi non possiamo mangiare, il cane lo può mangiare, il cane non è ebreo, e può mangiare anche taref. Anzi, la Torah dice chiaramente, quando la Torah parla di carne che non è stata sciachtata o un animale che è morto spontaneamente, dice chiaramente, dallo al cane. La kelev tashlichuno to, non è un problema. Buonasera. Quando invece si tratta di un divieto dove vige anche la norma dell'evitare il godimento di qualsiasi tipo, allora anche un nostro bene non può cibarsi, ad esempio, da quella cosa. Quindi chametz pesach oppure il miscuglio di carne e latte anche tutto l'anno. E allora, questo ci fa arrivare alle pulizie di Pesach. In che senso? Nel senso che la prima cosa che noi cerchiamo di fare è di eliminare il chametz da dove noi gestiamo la nostra vita, dalla casa, dalla cucina, dalle stanze. Dalla macchina, giustamente, dal posto di lavoro, di tutti i luoghi che sono considerati di nostro possesso, di nostra proprietà. Buonasera, buonasera. Ora è chiaro che quando noi parliamo di chametz, chametz non è solamente... Cosa è chametz innanzitutto? Chametz è definito nella seguente maniera dalla Torah e dalla spiegazione dei nostri chachamim. Ci sono cinque tipi di frumento, di cui quelli più comuni sono il grano e l'orzo. E questi cinque tipi di frumento, se mischiati con acqua e entro un certo tempo diventano chametz, si lievitano. Sì, ed è una cosa scientifica che esiste solo in questi cinque tipi di frumento, che si crea un processo chimico dove viene definito alachicamente chametz. Ok? Pesach non possiamo rientrare in tutto quello che riguarda chametz, come ho detto prima, nelle varie fasi, mangiare, possedere, godere in qualsiasi maniera. Questo riguarda il chametz. Il chametz e lo stesso frumento, in realtà, se fosse mischiato con qualcosa che non è acqua, come olio, succo di frutta, uova, tutto ciò che non è acqua, non diventa chametz, sì? Non si chiama acqua. No. Ok, però se... Allora, facciamo un passo indietro. Se il chametz si crea solamente con l'acqua, allora perché non posso prendere la farina e fare appunto qualche tipo di pietanza con uova o con qualcos'altro, con tutto qua? Perché la farina è trattata ed è pulita, il grano, con acqua e già è considerato chametz, prima che tu compri quella farina al supermercato è già considerato chametz. Per questo le mazzot sono fatte in un contesto in cui la farina, il grano è controllato dal momento della mietitura. E questo si chiama matzah shmurah. E per questo quasi l'unica cosa che si mangia durante Pesach con la farina di frumento vera e propria, quasi, che ci sono diverse eccezioni secondo i vari controlli che ci sono rabbinici sulle confezioni, però quasi l'unica cosa che mangiamo veramente a base di grano è la matzah, più o meno, ok? Per questo motivo. Ora, quando io ho una pentola nella quale abbiamo cotto la pasta, quindi la pasta è chametz e la pentola diventa di chametz perché assorbe il sapore del cibo che viene cotto in quella pentola, allora di conseguenza questa pentola a Pesach non la posso usare. Cosa posso fare? Due opzioni. O la metto da parte e la chiudo nell'armadio e non la uso per Pesach, uso un'altra pentola apposita per Pesach. Oppure, sì, cioè va lavata nel senso che non ci sia un residuo vero e proprio di Hametz. Seconda opzione, la casherizzo. La faccio diventare kasher nel senso per Pesach, nel senso che faccio eliminare quel sapore che ha assunto, assorbito dalle cose che sono chametz. Ci sono alcune cose che sono kasherizzabili e ci sono altre che non sono kasherizzabili. Sì? C'è una differenza, è diverso. Però il trattamento, cioè vanno sempre riposti negli armadi e tenuti. Allora, cioè una cosa è sì. Allora, tornando alla prima opzione, quella di non usare quelle pentole, cosa ci facciamo? Li mettiamo in un armadio. Questo armadio segniamo anche con un semplice pezzo di scotch e ci scriviamo sopra Hametz, in modo tale che non veniamo ad aprirlo durante la festa di Pesach, e quando qui riempiamo il modulo della vendita del Hametz, la vendita del Hametz include anche questi utensili. Ok? Metti un segno, o metti scritto qualcosa che tu riconosci, che quando vieni lì a Pesach ad aprirlo dici: no, non posso aprire perché c'è questa cosa, mi sono ricordato che è Pesach. Qualsiasi cosa che vuoi, basta che tu ti ricordi. Ora, questo è incluso nella vendita. Cos'è questa vendita? Allora, in teoria, noi prima di Pesach togliamo tutto il Hametz di mezzo, però abbiamo un problema perché la mamma della mia bisnonna magari aveva una pentola in mezzo che usava tutto l'anno e prima di Pesach, il giorno prima, lo kasherizzava, diventava kasher le Pesach e buonanotte. Però adesso noi abbiamo cucine hollywoodiane e tante posate e tante pentole e costano anche poco, si può comprare dai cinesi una cosa intera per 10 euro, eccetera, eccetera. E allora, grazie a Dio, abbiamo tutti più di due o tre cose in cucina. Allora diventa complicato casherizzare tutto. Di nuovo, ripeto, ci sono alcune cose che non si possono casherizzare, poi possiamo vedere cose specifiche. E allora cosa faccio? Metto da parte tutte quelle cose che sono di Hametz, non sono Hametz materialmente, sono di Hametz, quindi è il secondo grado di quello che appunto tu dicevi prima. E teoricamente anche cose che sono Hametz vero e proprio. Perché se io, per esempio, sono il titolare di una distilleria dove faccio il whisky, che faccio a Pesach? Butto tutto prima di Pesach. Ho la possibilità di vendere a un non ebreo tutta questa proprietà, tutto questo possesso, ed è una vera e propria vendita. Questo modulo qui non è il contratto della vendita. Questo è solamente la delega, dove tu firmi e metti l'indirizzo, il nome e deleghi il rabbino ad effettuare la vendita. Ma il contratto è un fascicolo, è un vero e proprio contratto, dove si stipula tutto ciò che bisogna stipulare per un contratto di vendita e viene venduto a un non ebreo prima di Pesach. E se tutto va bene, dopo Pesach lo si ricompra, lo si riacquista da questa persona. Questo fa sì che non abbiamo nel nostro possesso quegli utensili o anche quel Hametz vero e proprio, se non possiamo toglierlo prima di Pesach, abbiamo la possibilità, specialmente che appunto sono grandi volumi o quello che è, se sono 2 chili di pasta, allora li regali a qualcuno prima di Pesach e buonanotte. Però se parliamo di cose che non possiamo togliere, li possiamo chiudere, li possiamo includere nella vendita del Hametz. Si può regalare Prima di Pesach, prima della vigilia, cioè meglio il giorno prima, perché entro la mattina della vigilia. C'è qualcuno? Ok? qualcuno. Non è necessario sapere, si può regalare. Io pensavo che si potesse solo vendere. No. Se tu hai 1 chilo di pasta la settimana prima di Pesach e dici: io questo non voglio perché poi arriva Pesach, che ci faccio? Lo regali al tuo vicino, se lui non è ebreo, ovviamente. Ok? E glielo regali, però mica glielo chiedi indietro dopo Pesach. regali e basta. Se tu invece vuoi richiederglielo indietro, allora non puoi regalare, allora devi fare la vendita, stipula. Qui c'è questa sfumatura. Sì, certo, perché sennò il regalo non è un vero regalo. La vendita è una vera vendita. È fatta accuratamente, secondo tutte le regole, eccetera. Se tu dici io ho mezzo chilo qua, mi è rimasto di pasta, che ci faccio, lo regalo, non lo vedo più. Con quella intenzione va bene. Di nuovo ripeto, deve essere preferibilmente il giorno prima di Pesach. Perché già dalla mattina della vigilia, dopo un certo orario, già non possiamo più avere il possesso di Chametz. È una cosa anticipata, non inizia con la sera del Seder, inizia nella giornata della vigilia, questo divieto. Il giorno della vigilia, o prima, sì. I giorni prima, se vuoi regalare qualcosa, regali. Però regali, veramente. Guarda, vatti a fare un patto di piazza perché non mi serve questa pasta. O quello che è, ok? Sono rimasti questi biscottini, prendili. Fai dei regali e... Sì, però se ti rimane diverse cose e con tutte le cose della cucina che non sono cacerizzabili o che non fai cacerizzare, comunque la vendita del chametz la devi fare. Anche se non hai quella pasta in casa, comunque la delega della vendita la devi fare. A meno che hai una posata che cacerizzi per pesa, però non è il caso oggigiorno. Sì, e viene incluso nella vendita. Stessa cosa anche con i liquidi, con la birra. Bravo. Perché la birra non è chametz. Infatti dicevo prima il whisky. Stessa cosa. La birra è chametz. Sì. È chametz. È chametz vero e proprio. È fermentato, è un cereale fermentato. Non necessariamente, perché non è commestibile. Si può mangiare l'amido per stirare? Non penso. Allora, qui c'ho una lista di ogni tipo di cosa immaginabile. La regola generale è questa. Ho fatto una buona domanda. L'amido per stirare o altre cose? Buonasera. Ci sono molte cose cosmetiche che contengono chametz perché hanno diversi tipi di alcol, che possono essere a base di grano, esattamente. Allora, la regola generale in queste cose è: un chametz non è più considerato chametz se non è commestibile da un cane. Vuol dire, se una cosa che anche un cane non mangia, il cane mangia la cosa, per la pomata per lucidare le scarpe? No? Allora non rientra nel divieto di chametz. Se tu vuoi essere rigoroso e dire no, io comunque questo lo voglio chiudere nell'armadio, puoi chiudere, non è che ti dico di no, però sappi che per la regola non c'è problema. Per le medicine invece. Per le medicine. Buonasera. Oh, Chazak, Kol HaKavod, ringraziamo Ariel che ha donato i motori per le serande. Kol HaKavod. Dietro il magazzino, grazie. Ora, accomodati, hai un bicchiere d'acqua. Allora, signori e signore, potrebbe essere, non tutte sono necessariamente. Il discorso di medicina è così: se in questa medicina ci potrebbero essere degli ingredienti problematici, allora dipende. Se la persona sta male e questa è una medicina che si ingoia senza masticare, allora rientra nello stesso discorso che abbiamo detto prima, che non è un cibo e non è commestibile e si prende. Se la persona sta male, non sto parlando di cose integratori, vitamine, altre cose simili, non di questo stiamo parlando di cura medica sotto ordine del dottore. È una cosa che si prende anche attraverso via orale, però solamente ingoiando, allora va bene. Ok? Sempre si può controllare volendo prima di Pesach quali sono gli ingredienti scritti sul foglietto della medicina e vedere se ci sono problemi. Spesso uno non può anche capire bene, perché bisogna essere un po' esperti per conoscere cosa vuol dire esattamente questi ingredienti e se possono essere problematici o meno. Però in linea di massima, io adesso quello che vi dico può cambiare da una situazione a un'altra. Io vi sto dicendo in generale, non sto dando sentenze alachiche e che uno esce da qui e dice ok, ha detto così, allora da ora in poi possiamo fare così. Sto dicendo in generale come funziona. Poi chi ha domanda specifica può farmela dopo. Sì. Sì. Sì. Allora tu hai bambini? Grazie a Dio sì, ma sono grandi. Ok, allora se Dio vuole, quando avrai nipotini mi farai la domanda. Tuo marito è grande, non è un bambino. Tuo figlio è grande. Se gli serve una medicina la può ingoiare, no? Se ha la febbre alta, può ingoiare un'aspirina, un tachipirina, qualcosa. Meglio, come dicevo prima, quella da ingoiare. Se ha avuto problemi, allora deve rivolgersi al suo RAV nella sua base e gli risolverà i problemi. No, la domanda specifica deve essere fatta sul posto quando il problema c'è. Se è un'ipotesi, allora ti posso dare una risposta che poi non sarà valida sul momento. Capito? Giusto? Giusto? Non sono commestibili. Se sono problematiche, sì, non è che anche quel chametz non è un chametz come dicevi prima tu, evidente, no? Quindi sì, può essere messo da parte, sì, meglio metterli separati se non servono, se non anche questo è vero, sì. Ok, il cane non lo mangia. Allora, torniamo un attimino indietro. Riguardo al chametz. Allora, abbiamo detto il chametz, quello dove dobbiamo andare a pulire il chametz, no? Siamo partiti dalle pulizie. Allora, dobbiamo pulire la casa che non ci sia chametz in evidenza. E dove dobbiamo cercare il chametz per pulirlo? La regola è molto antica, scritta nella Mishnah, nella Gemara c'è scritto: dove regolarmente si entra con chametz, lì bisogna pulire il chametz. Dove regolarmente non si porta chametz, non c'è l'obbligo di andare a pulire lì il chametz. Vuol dire, se bambini piccoli girano per tutta casa, fanno briciole dappertutto, allora dobbiamo pulire dappertutto. Che vuol dire dappertutto? Con la scopa. Per la regola, pulisci con la scopa, raccogli le briciole, hai pulito il chametz. Nel soppalco il bambino non sale, non solo non sale con il panino, non sale proprio. Non entra dentro l'armadio sopra, sotto forse sì, ma sopra, se tu devi andare a prendere qualcosa dal suo palco, normalmente non ci sali con il panino in bocca, normalmente. Allora non hai l'obbligo di pulire lì. Dipende tu cosa fai quando giochi a calcio, non lo so. Adesso non litigate qua, per favore. Ho detto che do indicazioni generali. Allora, io sono cresciuto, siamo tutti cresciuti, che Pesach si pulisce tutto, anche quello dove non è che si va con chametz o non si va con chametz, non si va proprio. si pulisce uguale. È vero? Questo perché le nostre nonne l'hanno voluto fare, non perché sono state obbligate da qualcuno a farlo. Questa è una distinzione importante che ripeto che ho già detto prima. Ok? Lo sapevano per tradizione. Le nonne delle nonne lo sapevano. E le loro bisnonne lo sapevano. Ma sapevano che c'è una distinzione. C'è una distinzione. Una casa dove ci sono solamente adulti, per esempio, che sono civili e mangiano solo in alcuni luoghi, negli altri luoghi non devono controllare. Per la regola, dico, di nuovo, ripeto, per la regola è una cosa, per quello che uno vuole fare è un'altra cosa. Importante conoscere la distinzione. Allora lì vuol dire che bisogna pulire più o meno la casa. Soppalco sopra non è obbligatorio, bisogna pulire la macchina perché tutti mangiano in macchina, bisogna pulire le tasche, non delle cose che magari mettiamo una volta l'anno e solo a Kippur uno che... Però quello che si usa normalmente è un cappotto che abbiamo usato in inverno, adesso arriva, ancora non è proprio stagione calda, eccetera, eccetera. Risvolto dei pantaloni pure. Bravo, risvolto dei pantaloni. I vestiti, le tasche, vanno, uno ci mette la mano dentro per assicurare che non sia rimasto quel cioccolato Kinder o che ne so, qualcosa che può essere, vedo che Avi fa così. Allora, queste sono cose, sto facendo solo pochi esempi, chiaramente, perché possiamo allungare molto, però bisogna pensare nel senso pratico, per questo faccio esempi molto, molto, molto pratici. Ora, sì. Oh. Ok, allora divido questa domanda in due cose. Ineliminabile vuol dire perché? Perché normalmente non ci arrivi. Allora, non voglio fare l'esempio del forno, adesso ti dico perché. Faccio l'esempio che ho visto scritto qua in uno dei libri, sotto il frigorifero. Può essere che ci sono briciole sotto il frigorifero, vero? Okay. Ora bisogna spiegare una cosa. Perché togliamo questo chametz? Noi togliamo questo chametz, in teoria io faccio la vendita del chametz. Allora non è mio possesso. Non solo faccio la vendita, faccio anche una formula di annullamento del chametz, dove io dico, se ci dovesse del chametz essere, trovarsi, che io, del quale io non sono a conoscenza, lo, per me è considerato come se fosse polvere della terra. Chi abbia visto, chi non abbia visto, esattamente, brava. Allora, qual è il problema? Perché devo fare le pulizie? C'è un altro motivo. Perché può essere che se non fai le pulizie e trovi quel Kinder in tasca, te lo mangi. Perché? Perché non ci fai caso, può essere. Per questo tu devi fare le pulizie, devi togliere quello che è in evidenza. Nelle tasche, nella cucina, nelle qui, nelle lì. Ora, quella briciola che si trova sotto al frigorifero, se per 6 mesi non l'hai trovata, anche a Pesach non la troverai. Anche a Pesach non la troverai e quindi la puoi lasciare lì. Non sai se c'è. Ipotesi, puoi anche lasciarla. In teoria, per la regola, di nuovo, ripeto, se tu vai lì e sposti il frigorifero e vai a trovare quella briciola, cosa che non hai fatto tutto l'anno, lo fai solamente adesso in occasione di Pesach, in realtà avresti potuto lasciare il frigorifero al suo posto. Perché in quel chametz non ti saresti imbattuto. Questo è il problema di pulizia di chametz, imbattersi un pezzo di chametz e mangiarlo. Non la mangeresti comunque. Beh, ulteriore motivo per dire lo lascio lì. Ora, ecco, ora. Quindi, per la regola, il chametz che ha chiesto Valentina nella domanda, irraggiungibile o, hai detto, ineliminabile, grazie, in teoria lo puoi lasciare lì, aspetta, Questo abbiamo detto riguardo sotto il frigorifero. O simile. O situazioni simili. Il forno è diverso un po'. Perché il forno... Forno è caldo. Allora il forno mi diventa un problema più complicato. Se nel forno ho del chametz irraggiungibile, se lo so per sicuro, allora dovrei fare il massimo di eliminarlo. Se devo smontare la parte sopra, se devo o mettere dell'acido che diventa non più commestibile, se ci fosse qualcosa, qualche metodo devo trovare per migliorare la situazione. Magari nel capire che forno è specifico si può capire meglio come gestire la situazione. Però in generale, se parliamo di una cosa dove va cotto il cibo, allora siamo più chiaramente molto più rigorosi. A meno che non usi il forno. Potresti anche non usare il forno. Ci sono persone che non usano il forno e hanno un forno a parte per Pesach, perché è più facile per loro avere un forno a parte, che o non lo usano, però per famiglia è difficile. Un forno piccolo, usano solo Pesach, perché può essere più semplice, perché kasherizzare il forno è tra le cose più difficili da kasherizzare. Comunque, si può fare, però è più complicato di una semplice pentola. Sì. No, il forno, l'acqua calda non è sufficiente. Adesso spiego come le cose devono essere kasherizzate. Ora. Aspettiamo un attimino. Di nuovo, perché vanno kasherizzati gli utensili? Perché anche tutto l'anno, se io uso qualcosa con il latte, non lo posso più usare con il con la carne, perché assorbe, eccetera. Come si effettua la kasherizzazione? Nello stesso modo che ha assorbito la cosa non voluta, in questo caso chametz, che tutto l'anno è kasher, solo a Pesach non è più kasher. Nello stesso modo che lo assorbe, lo elimina. Vuol dire, una cosa che si cuoce con liquido sul fuoco, come una pentola normale, dove tu fai preparare la pasta, ad esempio, o qualsiasi altra cosa, che una pentola vuol dire una cottura con liquidi sul piano cottura, allora la sua maniera di diventare kasher, di togliere quello che ha assorbito, è esattamente la stessa maniera, bollendolo. Come faccio a bollire una pentola? Ci sono due possibilità. Questo si chiama hag'alah, questo tipo di kasherizzazione. Ci sono due possibilità. Una possibilità è prendere una pentola ancora più grande, fare bollire l'acqua. Per la hag'alah l'acqua deve essere in piena ebollizione, quindi bolle grandi, e nel momento che arriva a quel livello, sempre lasciando il fuoco acceso e lasciandolo sul fuoco, prendere la pentola più piccola e immergerla, non con le mani nude, con qualcosa dentro l'acqua che sta mentre bolle, immergerla completamente. Se non entra completamente perché è troppo grande, posso immergere la metà così, tirare fuori e immergere l'altra metà così. E la tiro fuori, la metto sotto l'acqua fredda e adesso è kasher le pesa. Questo con anticipando due cose: lavandolo e facendolo stare fermo 24 ore prima di questa kasherizzazione. Le cose di qualsiasi kasherizzazione normalmente devono essere non usate per 24 ore prima della kasherizzazione. Lo lavo col sapone come normale, lo faccio aspettare 24 ore e poi lo kasherizzo. Questa è una maniera di kasherizzare la pentola. Se la pentola è troppo grande, oppure è la pentola più grande e non ho dove immergerla, come la kasherizzo? Allora, la riempio d'acqua fino al bordo. e faccio bollire. Ora, dopo che sta bollendo, e mentre sta bollendo con il fuoco sempre acceso, devo inserire qualcosa di bollente all'interno di quest'acqua in modo tale che l'acqua straripa, e dopo che l'acqua straripa è considerato kasher, sempre seguendo le 24 ore di prima. Ora, cosa ci metto dentro? Ci posso mettere una pietra arroventata o un pezzo di metallo, ma queste due cose devono essere calde, bollenti dal fuoco. È difficile. Chi ha la pietra da arroventare dentro casa oggigiorno? Ti dico come, aspetta, scusami, concludo. La cosa pratica, il modulo è fatto. La cosa pratica è molto semplice. Il metallo da arroventare ce l'hai. Sai come si chiama? Un pentolino. Il cucchiaio non è abbastanza forte. Un pentolino. Piccolo pentolino. Ci metti l'acqua dentro, lo metti sul fuoco. Quando quell'acqua bolle, quel pentolino è un metallo arroventato. Lo prendi. Qui c'è la pentola grande che bolle con l'acqua fino al bordo. Qui c'è il pentolino piccolo, ormai sta già bollendo. Lo prendi con la manica così e lo inserisci dentro la pentola grande. In questa maniera l'acqua traborda e diventa kasher. Metti una, due asciugamani intorno e tutto a posto. Non fai chissà cosa in cucina. Non fai danni. Tu parli di quale tipo di utensile? Le pentole, sì. No. No, allora aspetta. Per le pentole d'acciaio è uguale a quello che ho detto fino adesso. No? Deve essere immerso nell'acqua bollente. Totalmente. Non in questa maniera. La lavapiatti non casherizza. Ora, quelle di acciaio sono quelli più semplici perché sono metallo, sono acciaio, si fa la galà sul piano cottura e tutto a posto. Questo per quanto riguarda una cosa che sta sul fuoco, con liquido. Lì si toglie come con il liquido. Altre cose che vengono in contatto meno diretto con il calore, che vuol dire meno diretto? Un piatto sul quale tu mangi. È vero che ci metti la pietanza calda, ma non metti il piatto sul fuoco. È un livello minore di calore. Dalla pentola metti sul piatto. Allora, per kasherizzare il piatto, la stessa cosa. Prendi l'acqua bollente e il piatto non deve entrare nell'acqua bollente come la pentola quando sta sul fuoco, perché non lo cuoci mai il piatto dentro al fuoco. Versi l'acqua bollente sul piatto. Questa è la sua kasherizzazione. Uguale per le posate. Le posate che si usano a tavola non si mettono dentro alle pentole. Quelli che si usano a tavola normalmente. Allora, allora adesso arrivo a un consiglio pratico. In teoria le posate il qualche volta non incide, perché la regola è che la casherizzazione dell'utensile segue il suo uso comune, la maggior parte del suo uso. Rov tashmisho, la maggior parte del suo uso. Quindi qualche volta per la forchetta che tu magari una volta l'hai messa per prendere lo spaghetto non mi crea problemi. Però a livello pratico è più facile fare bollire la pentola e mentre è in involuzione, anche se è sul fuoco, fai un livello maggiore ma è più facile, ok? Non è per essere rigorosi, è per dare una cosa pratica. Butti dentro la forchetta, la tiri fuori, butti dentro un'altra. In teoria potresti mettere anche diversi insieme, basta che non sono 100 e non toccano più l'acqua, ma lo gestisci in maniera pratica da solo e capisci se e lo tiri fuori, lo metti sotto l'acqua fredda e buonanotte. Cancello e pesa. Ok? Quindi questo vale per piatti, per posate che si usano non normalmente non direttamente sul fuoco come la pentola. Quindi anche per calendarizzare il lavabo, basta che lo fa con l'acqua calda. Giusto? Quindi qua qui uno potrebbe mettere le posate all'interno del lavabo prima dopo aver calendarizzato il lavabo. Sì. E versare sopra le posate. Sì? Sì, in teoria potresti fare così. Sì. Ok? Ok. Oh, allora di quale piatti parliamo? Quelli che non si possono kasherizzare sono di ceramica, di porcellana, terracotta, coccio, come diciamo a Roma. Queste cose non sono kasherizzabili, quindi vanno necessariamente messe via per Pesach, chiuse nell'armadio e segnate come chametz. Se ci sono altri tipi di piatti, possono essere kasherizzati in questa maniera qua. Infatti è semplice, però se serve qualcosa si può. È semplice ed è la cosa, oggigiorno è la cosa più pratica, però comunque se uno vuole kasherizzare, che sappi le regole. Una cosa, allora ci sono alcune cose che per gli ashkenaziti sono più rigorose. Io vi dico per i sefarditi, tu sei in minoranza qui insieme a me, come ashkenaziti, oggetti, vabbè, però non vale per te. Allora adesso arrivo a questo un attimo. Ma è vero che non posso mangiare? Sì, ashkenaziti non posso mangiare. L'utensile che non è usato a caldo normalmente, come per esempio il bicchiere del Kiddush di argento. Ci scaldi qualcosa dentro il latte per il cappuccino? No? Lo usi solo per il Kiddush? Allora non è usato a caldo e quindi per la regola sefardita non deve essere kasherizzato per Pesach, deve essere solo lavato bene. Non c'è l'obbligo di kasherizzarlo. Eh? Come ti ripeto, se vuoi e puoi avere un bicchiere a parte per Pesach, ben venga. Non ho detto che non è meglio, sto dicendo qual è la regola. Ok, ripeto di nuovo. Ok? Solo di nuovo, per capire le distinzioni, ci sono livelli, ci sono modi e ci sono dettagli, molti dettagli. Un'altra cosa che si usa a freddo e non a caldo, cos'è? Il frigorifero? Il freezer? Congelatore? Non si usa a caldo, è fatto apposta per freddo. Allora cosa si deve fare? Aspetta, concludo la frase e sento la tua domanda. Cosa si deve fare per il frigo e il freezer? Pulire bene, che non ci sia chametz. A volte non è semplice perché a volte ci sono fessure, ci sono le grate, dove bisogna fare attenzione nella guarnizione della porta. A volte va pulita bene, a volte va cambiata, ok? Però non devi kasherizzare con acqua bollente. Non si usa a caldo. Va pulito, pulito accuratamente, ma non kasherizzato. Cioè la sua kasherizzazione è la sua pulizia. Per fare un esempio, piano lavoro va kasherizzato perché si usa almeno al secondo livello di calore, si usa allora almeno al secondo livello di calore, cioè versare acqua bollente, va kasherizzato, a meno che uno lo pulisce bene e poi lo copre con qualche tipo di carta stagnola, ma non è pratico usare lavorare su carta. Sì, metti carta stagnola, ma poi ci metti, ci sono queste cose di sintetiche che si può usare, tipo, come si chiama? Linoleum, esattamente, che non è così complicato. Si può fare, oppure se uno vuole kasherizzare, allora lì però dipende anche che tipo di piano lavoro è. Se è di acciaio, si può fare. Se è di marmo, si può fare. Se di legno si può fare, e altri materiali, alcuni si possono fare, alcuni no, anche quando è un marmo grezzo o un'altra cosa, anche il legno se ha delle fessure è più problematico, le fessure ci creano problemi, il laminato di quale materiale? Plastica? Allora, sulla formica? Sulla formica ci sono delle discussioni, perché alcuni è considerata una forma di plastica, però alcuni permettono la cacciarizzazione della plastica, altri sono più rigorosi. Penso che i sefarditi sono meno rigorosi su questa cosa, quindi si potrebbe cacciarizzare, chi lo cacciarizza la formica si appoggia su buone fonti, comunque su buone basi, però se è possibile coprire, si copre. Abbiamo fatto solo alcuni esempi per capire le varie forme di cacciarizzazione. Un'altra forma di cacciarizzazione, un utensile che si usa a contatto diretto con fuoco, ma non come una pentola con il liquido, ma senza liquido, o con poco liquido, no? Come la griglia, o ci sono alcuni tipi di... come si chiama? Di tegami, no? Che sono fatti da usare a secco. Sì, allora in quel caso anche la loro cacciarizzazione è attraverso il fuoco diretto, però richiedono una cacciarizzazione con il fuoco abbastanza, abbastanza forte. Non è consigliabile per tutti effettuare questo tipo di cacciarizzazione perché può dare fuoco a casa o farsi male o rovinare l'utensile. È vietato cacciarizzare un utensile che la persona ha paura di rovinare perché non lo cacciarizza bene. Ok? Questa è una regola? Allora, però parliamo di cose che si usano proprio sul fuoco. La cosa più pratica è metterli da parte, ok? O avere un altro per Pesach o non usare proprio per una settimana. Secondo alcune opinioni non succede niente. Forno a microonde si può cacciarizzare. Bisogna chiaramente anche qui lavarlo accuratamente, guarnizione, tutto l'interno, eccetera. E poi mettere un contenitore d'acqua e farlo stare per molto tempo, tipo 10, 15, 20 minuti, finché bolle e traborda, straripa l'acqua all'interno del forno microonde. Sempre aspettando prima 24 ore non usandolo, sempre prima della cacciarizzazione di qualsiasi cosa, si fanno prima 24 ore di fermo. Sì. Sì. Sì. È un vapore anche liquido, no? Perché c'è anche il vapore secco a livello industriale. No, di uso comune no. Sì, se arriva a quel livello di gradatura, di temperatura, allora si può. Questo per le cose, non per le pentole, quelle devono bollire. Per le superfici, cioè quello che è il livello minore di calore di utilizzo, seconda mano, diciamo. Quale? Quello è già più problematico. Lo so. Potresti rovinarlo? No. 100 gradi? Sul vetro? Ok, abbiamo una testimonianza dal vivo. Ok. Andiamo avanti. Su cacciarizzazione abbiamo altre domande? bicchieri in vetro per i sefarditi si fa la kasherizzazione attraverso il riempirli d'acqua, non acqua bollente, acqua normale. Dopo 24 ore versare fuori l'acqua, riempire nuovamente, dopo 24 ore di nuovo, per 3 volte, 72 ore. Per 3 volte riempire e svuotare bicchieri di vetro, oggetti di vetro, per i sefarditi. Brava. Non dimenticare che cose nuove va fatta la tevilà del mikve. Un'altra cosa, non è solo per Pesach, sempre. Non parlavo con te, tu fai tutto. Dico per altri. Allora, a Pesach abbiamo detto chametz sono alcune cose specifiche, 5 tipi di frumento. Questo è chametz. Altre cose non sono chametz. E il problema, il motivo per cui abbiamo bisogno a Pesach di essere molto attenti a quello che mangiamo. Dice, vabbè, qui non c'è frumento, compro una cosa semplice al supermercato dove non risulta che ci sia frumento. Non è necessariamente così, perché ci sono diversi tipi di lavorazione, ci sono diversi tipi di macchinari dove passano diversi tipi di alimenti, e quindi qualsiasi cosa che è, quasi tutte le cose, diciamo, che sono comunque elaborate nella loro produzione, quindi non parlo dell'albero, del frutto che viene dall'albero, che non serve che ci sia scritto sopra Kasher Pesach se viene da fuori da Israele, perché se viene da Israele serve la teuda anche per i frutti degli alberi o altre cose, perché ci sono altre regole agricole in Israele che fuori da Israele non si applicano. Però prodotti che sono elaborati in qualche maniera per Pesach devono essere controllati. L'acqua minerale si può bere qualsiasi, l'olio extravergine d'oliva, vero, perché non ogni olio extravergine d'oliva che tu vedi al supermercato, se proviene da oli comunitari e già tante cose, ci possono essere diverse cose, però un olio vero italiano, spremuto a freddo, si può prendere, perché va fatto in una certa maniera, ma quasi tutte le altre cose devono essere controllate per Pesach per questo motivo. Sì? Perché non è un prodotto puro, e può passare in diversi macchinari, in diversi camion, in diversi non hai quella garanzia. C'è qualche lista, sì. Allora, per quanto riguarda altre cose che non entrano nel frumento, ci sono diverse usanze in diverse comunità e a volte in diverse famiglie, ok? Quindi c'è chametz, che il chametz è solo il chametz, è quello per il quale non si può né mangiare, né avere il possesso, né godere di qualsiasi tipo di godimento, vendita, il cane che lo mangia, eccetera. E altre cose che alcuni hanno usanza di non mangiare a Pesach, che devono rispettare la loro usanza e non possono mangiarli, però non hanno quel divieto di trarre altro tipo di godimento o di possesso, quello è già, non è chametz, ok? Quindi non rientra in quello, rientra solo nel, normalmente solo nel divieto di mangiare proprio. E questo si può basare appunto anche sull'usanza di famiglia o di una determinata comunità. Per esempio, i tripolini non mangiano ceci o derivati, hummus a Pesach. Cosa c'entra hummus con Pesach? Cosa c'entra con il chametz? Teoricamente niente. Però se voi pensate, tutto l'anno sì. No, non è per questo. Allora, se voi pensate alla pronuncia di ebrei nordafricani, come si dice chametz? Chametz. Come si dice hummus? Homos, è quasi uguale. E allora si è creata un'usanza, siccome il suono dei nomi è sì molto simile nella loro pronuncia, allora noi evitiamo. Allora i tripolini non mangiano homos a Pesach. scusa, non ha senso che c'entra Chumus con Chametz, non c'entra niente, ok? Non è vietato, è un'usanza. E chi ha l'usanza deve seguirla. Ci sono famiglie che non mangiano pesce a Pesach. Tra gli ebrei romani esiste questa usanza. Cosa c'entra il pesce con Pesach? Qual è il problema? Allora, voi mi insegnate che i banchi di pescheria si trovavano anche sotto fiume, sugli argini del fiume attaccato al ghetto. E cosa si faceva per tenere il pesce più fresco? O che sembra almeno più fresco? Si infarinava. E allora non lo tocchiamo il pesce, cioè, ci mettono la farina. Chametz, questo già non è hummus, è chametz. Allora oggi se tu vai in pescheria, vedi che non usano la farina, però se tu hai questa usanza, la porti avanti. Nelle comunità ashkenazite, ma anche in alcune comunità sefardite, come in alcune comunità marocchine e altri, hanno l'usanza di non mangiare diverse cose, quindi riso e altri legumi, e legumi vari, che per esempio venivano trasportati insieme al grano, e che difficilmente poi si individua il granello che si mischia, oppure che possono essere adoperati come se fossero grano. Per esempio, puoi fare la farina di riso e creare qualche tipo di dolce, qualcosa può sembrare. Ci sono diverse motivazioni storiche per questa cosa. E tutto il mondo ashkenazita non mangia riso, non mangia fagioli, non mangia ceci, non mangia mais. Questo si chiama kitniot. E per questo, se voi andate a vedere bene le certificazioni di Kasherut per Pesach, a volte c'è scritto Kasher le Pesach, rak le ochlei kitniot. È kasher le Pesach solo per chi mangia le kitniot, cioè mangia i legumi. Ma non è kasher le Pesach per chi non li mangia. Ok? Questo è un esempio. Quindi, per gli ashkenaziti, queste, o anche alcuni altri gruppi, ci sono alcune cose. In altre parole, quello è il punto che voglio dire, è che se una persona conosce le proprie usanze di famiglia o di comunità che si sono fatte, vuol dire non che tu adesso vieni a conoscenza che un trisavolo 500 anni fa ha fatto così, tu non sei tenuto a farlo, però se tua mamma, tua nonna si è comportata in una certa maniera, allora tu porti avanti l'usanza. Carne arrosto a Pesach è un problema la sera del Seder, perché è simile al Korban Pesach, però questo è già un altro discorso. La sera del Seder. Perché non possiamo fare una cosa fuori dal Bet HaMikdash che può essere simile a un Korban del Bet HaMikdash. Non lo è, ma lo assomiglia, grazie. Ok? Sì. Ok, allora... Oh, allora ho detto, tutto questo è tutta un'altra lezione. Abbiamo un'eccezione a Roma, anche se forse una o due altre comunità hanno anche un'eccezione simile, ma quella di Roma è scritta già nel Talmud. Scritto nel Talmud che a Roma c'è un'eccezione. Lo dico solo una volta. Un segreto. Appacchio e affettato. L'affettato non è un problema. L'affettato non è un problema. A Roma sì, solo a Roma però, scritto nel Talmud, Todus, Taddeo. Ok, altre domande specifiche, se ci sono? Deve essere Kasher Pesach, è un prodotto... Sì, perché quale può essere il problema? Vari tipi di acido, bisogna sapere la sua origine, se è Kasher Pesach o no, può esserci Quindi oggi grazie a Dio si trova anche il supermercato queste cose kasher e Pesach. Sì. Ok. Allora ti dico l'usanza hasidica. L'usanza tra i hasidim, giustamente Leo fa un'osservazione interessante e importante al tempo stesso, dicendo che se ci sono diverse usanze tra diverse famiglie, tra diverse comunità, allora il chametz nessuno lo mangia, però uno mangia il riso, uno non mangia il riso, uno mangia i ceci, uno non mangia i ceci. E se io voglio invitare qualcuno a cena durante Pesach, come mi comporto? Che gli chiedo a lui la lista, il menù, la spesa? Che faccio? No, se io... Ok, se non sai... Se non sai tutte le sue tradizioni... Elimini ogni rischio. Allora, vi racconto l'usanza hasidica di Pesach, come funziona. L'usanza tra i hasidim a Pesach è che nessuno invita nessuno. Non ho finito, ascoltate bene, un secondo di pazienza. Nessuno invita nessuno e chi vuole andare da qualcuno va, senza essere invitato. No, nel senso, se io mi fido, se... Non hai capito. Allora, mio cugino non mi invita a cena quando è Pesach, perché dice forse lui non gli piace questa carta stagnola che io uso sul piano cottura e lui usa un'altra carta stagnola. Allora, perché Pesach ognuno ha le sue pazzie. Allora dice, allora non lo invito. Però io, per me va bene quello che fa mio cugino. Allora ci vado, da solo, senza essere invitato. Ok? Questa è l'usanza hassidica, per dire siamo tutti fratelli e chi vuole andare da qualcuno va, però nessuno invita nessuno per non mettere in imbarazzo. Questo per dire... Chiaramente però può funzionare in un certo contesto. In generale, se tu sei invitato da qualcuno e tu sei tripolino, per esempio, non mangi i ceci e lì vedi una bella insalata di ceci, mangi tutto il resto e non mangi i ceci. Qual è il problema? Se lo offro, allora tu dici, guarda, è la mia usanza di famiglia che a Pesach non mangiamo i ceci. Però questo non mi... E al tempo stesso aggiungi, Bete Avon, buon appetito con questi ceci, spero di darmi, che mi dai la ricetta dopo Pesach, voglio assaggiare. Maniera molto, si trova il modo che sia una cosa leggera e non sia un'offesa. Se è proprio un rischio di una grande offesa, allora forse deve considerare di mangiarlo per non mai sia offendere una persona. È molto grave offendere una persona. Allora uno sicuramente può trovare il modo di farlo senza offendere, però se è veramente un rischio forte che magari... il principe di Savoia, allora allora trovi il modo. Se invece viene fatto il seder in una casa dove si osserva Moed, vengono di altre persone che comunque non osservano Moed e loro portano delle cose da mangiare. Chi osserva Moed mangia quello che ha cucinato prima, le sì. Cose che... Quando parliamo di kasherizzare utensili che vogliamo usare durante Pesach, lo dobbiamo fare prima di Pesach. Ovviamente so che sapete che bisogna fare prima di Pesach, ma prima di Pesach non vuol dire nelle ore antecedenti il seder. Lì, per quanto riguarda il chametz, è come se già fosse Pesach, come ho già detto prima. Quindi vanno fatte, l'ideale è... Entro la sera prima, quando si fa la ricerca del chametz, prima della ricerca del chametz, siamo pronti per Pesach. Quello che deve essere kasherizzato è stato kasherizzato, non deve essere 2 settimane prima, può essere lo stesso giorno, se hai più cose, un giorno ancora prima, però deve essere entro quel tempo lì, perché una volta entriamo nella mattina della vigilia di Pesach, già abbiamo tutto il divieto che riguarda il chametz. Il chametz è anche una cosa che dobbiamo eliminare da dentro di noi. perché il lievito e il gonfiore è una cosa che spesso esiste dentro di noi, il nostro ego, il nostro stesso io a volte ha bisogno di essere sgonfiato, e questa è la funzione spirituale di Pesach, è quella di togliere il Hametz spirituale. Quando noi siamo molto occupati con l'eliminazione del Hametz materiale, questo non ci deve fare dimenticare che dobbiamo anche essere occupati con l'eliminazione e il bruciare via il Hametz spirituale. E per questo noi mangiamo la Matzah, perché se noi pensiamo alla parola Matzah e alla parola Hametz, sono quasi uguali come sono composte queste parole, perché entrambe hanno la Mem, sia la Matzah che inizia con la Mem, che è il Hametz che ha la Mem in mezzo, e la Tzadi, la Matzah in mezzo e Hametz alla fine, e l'altra lettera che non è uguale è simile, la Chet nel Hametz e la Hei nella Matzah. L'unica differenza tra la Chet e la Hei è semplicemente un'apertura nell'alto, nella parte alta del... Per quanto riguarda tutto il resto è la stessa lettera, solo che nella Hei abbiamo un'apertura che va verso l'alto e nella Chet non abbiamo alcuna apertura verso l'alto, solamente un'unica apertura verso il basso. Perché chi è gonfiato va solo verso il basso, vuol dire che guarda solo le cose materiali, guarda verso giù, come un quadrupede che guarda sempre verso la terra e non guarda il cielo, come uno che cammina su due come noi. E invece... nel creare questo buco che va verso su, che una persona guarda e riconosce che lui non è niente, ma tutto quello che ha, tutto quello che è solo perché HaKadosh Baruch Hu fa sì che sia così, allora capisce che non è lui che si è creato, e non è lui o lei che si è fatto nella vita, ma è solo con la Berakha di qualcuno sopra, allora in quel momento la persona non dà più talmente tanta importanza a se stessa, ma sa che deve... essere un tramite, deve essere un qualcosa attraverso il quale passa un messaggio che è più grande di lui e di lei, per aiutare, per illuminare il mondo, per aiutare altri. E questa è una degli uno degli spunti che riguardano il Pesach a livello spirituale. Vi auguro Chag Kasher Vesameach, una festa gioiosa, e Kasher le Pesach.